Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Ma dove vai? Bellezza in bicicletta. Così di fretta pedalando con ardore. Le gambe snelle, tornite belle. M'hanno già messo la passione dentro al cuore. Buon pomeriggio, domenica 8 marzo, dedichiamo questa puntata alle donne in bicicletta con un libro uscito pochi giorni fa, Donne in bicicletta, una finestra sulla storia del ciclismo femminile in Italia di Ediciclo Editore, scritto da Antonella Stelitano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E allora, trevigiana, giornalista, studiosa dello sport, autrice di questo volume molto denso, 470 pagine, frutto di un lungo lavoro di ricerca condotto per alzare il velo su un settore, il ciclismo femminile, oggetto di discriminazioni, di pregiudizi, e su un rapporto tra donne e bici travagliato e contrastato, un rapporto che Antonella ha voluto ripercorrere dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Sì, effettivamente sì, il colpo d'occhio è stato lungo e quindi sono partita da lontano, però io in realtà pensavo anche di sbrigarmela prima e di fare una cosa più rapida, perché come tanti non immaginavo che invece ci fosse tanto da scoprire. Quindi il ciclismo femminile, che è sempre stato messo da parte, ostacolato e deriso anche da molti, in realtà aveva una sua storia da raccontare, e quindi all'inizio pensavo che sarebbe stato veloce farlo, invece mi ci sono voluti 3 anni, e però alla fine insomma mi sono anche molto divertita a parlare soprattutto con queste donne che correvano negli anni 60, 70, le loro storie, gli aneddoti di chi le aveva precedute. Insomma, è stata anche una bella esperienza umana, io questo lo dico sempre, quindi mi sono molto divertita e appassionata. Un pregiudizio, un'ostilità nei confronti insomma delle prime donne che vanno in bicicletta già sul fine dell'Ottocento, che nasce perché? Forse perché la postura era un po' disdicevole? Ma le donne all'inizio subiscono lo stesso tipo di condanna morale dei preti. Cioè, anche i preti era proibito andare in bicicletta perché le movenze risultavano poco aggraziate. In più, anche i preti, usando la tonaca, avevano il problema della gonna che si impigliava tra i raggi. Quindi all'inizio diciamo che queste due categorie di soggetti vengono un po' esclusi dai soggetti privilegiati che potrebbero utilizzare questo mezzo di locomozione. Poi in realtà per la donna c'è tutto un discorso legato all'abbigliamento, perché una donna che va in bicicletta non mette il busto con le stecche di balena, non usa questi gonnelloni grandi, questi pizzi, questi vestiti strizzati in vita, deve usare un abbigliamento più razionale, come si diceva, e quindi possibilmente usare delle gonne pantaloni o dei pantaloni. Questo suscitava scandalo, quindi la donna che usciva con la bicicletta in pantaloni era qualcosa di rivoluzionario per il tempo. E poi si aggiungevano obiezioni morali, perché la donna in bicicletta comunque, usando questo abbigliamento e potendosi muovere in libertà e autonomia, sicuramente gli si dava una connotazione morale negativa. E poi c'erano tutta una serie di fantasiose obiezioni, anche mediche. La prima di tutte era che andare in bicicletta potesse abbassare la possibilità futura di avere figli, e quindi andare in bicicletta era assolutamente dannosissimo per la salute. Le donne non dovevano andare in bicicletta. Poi furono creati anche dei sedili speciali, perché le donne sedute in bicicletta comunque non dovevano mai appoggiare esattamente il loro posteriore nella sella, perché anche questo poteva essere l'anticamera, tra virgolette, di mondi vizi, come si diceva, per cui addirittura questo. Oppure addirittura si diceva che il pedale poteva provocare la deformità del piede. E poi le donne in bicicletta in tandem dovevano sedere davanti e il marito dietro, perché se sedevano dietro, da dietro si potevano vedere le terga. Quindi c'era tutto un corollario di obiezioni, ma addirittura possiamo dire che anche negli anni 70-80 c'era chi consigliava alle donne troppo nervose la bicicletta, perché dovevano scaricare, queste donne eccessivamente nervose, era giusto che andassero in bici per scaricare il nervosismo. E addirittura qualcuno in un giornale degli anni 80 di questo del secolo scorso, quindi 1885, scrisse addirittura che poteva essere, diciamo, positivo anche all'interno del matrimonio che una donna scaricasse le sue tensioni andando in bicicletta, perché questo poteva insomma renderla più tranquilla quando era in casa. Quindi è sempre un po' stato visto come un mezzo così un po' strano e l'avvicinamento delle donne a questo mezzo ha sempre sollevato molte critiche. Ecco, invece durante la resistenza c'è un po' un'evoluzione di questo rapporto? Grazie a Dio le donne della resistenza, le staffette partigiane soprattutto, usavano la bicicletta per muoversi e facevano dei tratti anche impervi, perché basti pensare insomma all'Emilia Romagna, alla Toscana, ma anche alla Lombardia, al Piemonte. Queste donne usano delle biciclette che sono pesantissime, molto diverse da quelle che si usano ora, e facevano dei percorsi molto accidentati, lunghi, in condizioni pessime, anche sotto la neve, e in qualche modo il loro impegno ha cambiato il modo di vedere la donna in bicicletta. Tanto che poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel periodo della ricostruzione, è stato normale vedere donne operaie che andavano in fabbrica in bicicletta. Quindi questi apporti hanno certamente modificato l'immagine sociale della bicicletta, che è sempre legata alla cultura del paese, perché se da noi destavano scandalo le donne in bicicletta, negli stessi anni invece in Olanda erano così abituati a vedere queste giovani ragazze in bicicletta con le donne che magari si sollevavano in primavera alla prima folata di vento e nessuno si scandalizzava. Ecco, invece sul piano sportivo agonistico, qual è stato il rapporto tra bicicletta e donne? Quali sono state le tappe fondamentali? Diciamo che le donne sono state ammesse, diciamo, al tesseramento ufficiale a partire dal 1962 e soltanto nel 1984 il ciclismo femminile è entrato nei programmi dei giochi olimpici, quindi insomma stiamo parlando di non tanti anni fa. E ovviamente all'inizio le gare erano poche, le tesserate erano poche, molte dovevano fare delle gare insieme a categorie inferiori a livello maschile, quindi magari con gli allievi, con categorie appunto, con competizioni miste. E gare ce n'erano poche, ce n'era una ogni domenica da maggio a settembre e soltanto nelle regioni del nord, quindi questo ha favorito un divario tra la diffusione della bicicletta al nord e al sud. E ancora adesso però questo pesa perché ci sono situazioni diverse a livello di piste ciclabili e anche di modo di vedere insomma il ruolo della donna nella società. E le donne però, benché messe dal 62 in poi, hanno contribuito al medagliere complessivo dell'Italia per circa il 50%, quindi insomma si sono date da fare, hanno accorciato subito le distanze e quindi hanno portato un contributo molto alto in termini di medaglie e risultati. Oggi, al di là dell'ambito sportivo agonistico, come lo vedi il rapporto tra le donne e la bicicletta, non so, in ambito urbano come mezzo di trasporto per fare cicloturismo o in ambito sportivo però insomma amatoriale? E c'è sicuramente una diffusione a macchia di leopardo, come dicevo. Ci sono regioni dove per le condizioni, credo anche geografiche, è più facile. Io sono trevigiana e sicuramente Treviso è una città dove ci si muove molto volentieri in bicicletta ed è piena di percorsi anche all'esterno, nel verde, penso al Montello, alla Piedemontana, alle colline del Prosecco. Insomma, ci sono molte possibilità di divertirsi sia a livello amatoriale ma anche di spostarsi per il lavoro in bicicletta, per accompagnare i figli a scuola. In altri posti questo non è possibile, ma in generale io parlando con tante cicliste, cicliste professioniste, cicliste amatoriali, persone che semplicemente usano la bicicletta durante i loro tragitti quotidiani, mi sono resa conto di una cosa, che per le donne il rapporto con la bicicletta è un rapporto a 360 gradi, non è mai solo un fatto tecnico e agonistico. E la bicicletta è e resta sempre un sinonimo di libertà e di autonomia. La donna non è particolarmente interessata ad avere nella propria bicicletta i freni ultimo modello piuttosto che qualche altra tecnologia avanzata. Il rapporto con la bicicletta è sempre un rapporto complessivo di apprezzamento per il mezzo, di godimento del paesaggio, di utilizzo per le cose quotidiane, e c'è un rapporto secondo me più allargato, come potrei dire, mentre per gli uomini mi si fa notare che è sempre più legato all'aspetto agonistico, all'aspetto tecnologico, sono due cose completamente diverse. Bene, grazie mille Antonella Stellitano, Donna in bicicletta, una finestra sulla storia del ciclismo femminile in Italia di Ediciclo Editore, buon pomeriggio. Grazie a voi. E noi ci fermiamo qui, seguiteci anche su podcast dal sito di Radio 24 e scriveteci a rotalibera@radio24.it. Buon pomeriggio, buona pedalata a tutti, ciao.